Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Io non so se sia vero quello che si legge nei libri, che in antichi tempi una scimmia che fosse partita da Roma, saltando da un albero all'altro, poteva arrivare in Spagna senza mai toccare terra. Ai tempi miei, di luoghi così fitti d'alberi c'era solo il Golfo d'Ombrosa, da un capo all'altro, e la sua valle fin sulle creste dei monti. E per questo i nostri posti erano nominati dappertutto. Ora già non si riconoscono più queste contrade. S'è cominciato quando vennero i francesi a tagliar boschi come fossero prati che si falciano tutti gli anni e poi ricrescono. Non sono ricresciuti. Pareva una cosa della guerra, di Napoleone, di quei tempi. Invece non si smise più. I dossi sono nudi che a guardarli, noi che li conoscevamo da prima, fa impressione. Allora, dovunque s'andasse, avevamo sempre rami e fronde tra noi e il cielo. L'unica zona di vegetazione più bassa erano i limoneti, ma anche là in mezzo si levavano contorti gli alberi di fico, che più a monte ingombravano tutto il cielo degli orti, con le cupole del pesante loro fogliame. E se non erano fichi, erano ciliegi dalle brune fronde, o più teneri cotogni, mandorli, giovani peri, prodighi susini, e poi i sorbi, i carrubi, quando non era un gelso o un noce annoso. Finiti gli orti, cominciava l'oliveto, grigio argento, una nuvola che sbiocca a mezza costa. In fondo c'era il paese accatastato, tra il porto in basso e in su la rocca. E anche lì, tra i tetti, un continuo spuntare di chiome di piante, lecci, platani, anche roveri, una vegetazione più disinteressata e altera che prendeva sfogo, un ordinato sfogo, nella zona dove i nobili avevano costruito le ville e cinto di cancelli i loro parchi. Sopra gli olivi cominciava il bosco. I pini dovevano un tempo aver regnato su tutta la plaga, perché ancora si infiltravano in lame e ciuffi di bosco giù per i versanti, fino sulla spiaggia del mare. E così i larici. Le roveri erano più frequenti e fitte di quel che oggi non sembri, perché furono la prima e più pregiata vittima della scure. Più in su, i pini cedevano ai castagni. Il bosco saliva la montagna e non se ne vedevano i confini. Questo era l'universo di linfa entro il quale noi vivevamo, abitanti d'Ombrosa, senza quasi accorgercene. Il primo che vi fermò il pensiero fu Cosimo. Capì che, le piante essendo fitte, poteva, passando da un ramo all'altro, spostarsi di parecchie miglia senza bisogno di scendere mai. Alle volte, un tratto di terra spoglia lo obbligava a lunghissimi giri, ma lui presto si impratichì di tutti gli itinerari obbligati e misurava le distanze, non più secondo i nostri estimi, ma sempre con in mente il tracciato contorto che doveva seguire lui sui rami. E dove neanche con un salto si raggiungeva il ramo più vicino, prese a usare degli accorgimenti. Ma questo lo dirò più in là. Ora siamo ancora all'alba in cui, svegliandosi, si trovò in cima un elce. Tra lo schiamazzo degli storni, madido di rugiada fredda, intirizzito, le ossa rotte, il formicolio alle gambe e alle braccia, e felice si diede a esplorare il nuovo mondo. Giunse sull'ultimo albero dei parchi, un platano. Giù digradava la valle sotto un cielo di corone di nubi e fumo che saliva da qualche tetto d'ardesia, casolari nascosti dietro le ripe come mucchi di sassi. Un cielo di foglie alzate in aria dai fichi e dai ciliegi. E più bassi prugni e peschi divaricavano tarchiati rami. Tutto si vedeva, anche l'erba, fogliolina a fogliolina, ma non il colore della terra, ricoperta dalle pigre foglie della zucca o dall'accesparsi di lattughe o verze nei semenzai. E così era da una parte e dall'altra della V in cui s'apriva la valle ad un imbuto alto di mare. E in questo paesaggio correva come un'onda, non visibile e nemmeno, se non di tanto in tanto, udibile. Ma quel che se ne udiva bastava a propagarne l'inquietudine. Uno scoppio di gridi acuti tutto a un tratto, e poi come un croscio di tonfi, e forse anche lo scoppio d'un ramo spezzato, e ancora grida, ma diverse, di vociacce infuriate che andavano convergendo nel luogo da cui prima erano venuti i gridi acuti. Poi niente, un senso fatto di nulla, come d'un trascorrere, di qualcosa che c'era da aspettarsi non là, ma da tutt'altra parte, e difatti riprendeva quell'insieme di voci e rumori. E questi luoghi di probabile provenienza erano, di qua o di là della valle, sempre dove si muovevano al vento le piccole foglie dentate dei ciliegi. Perciò Cosimo, con la parte della sua mente che veleggiava distratta, un'altra parte di lui invece sapeva e capiva tutto in precedenza, formulò questo pensiero: le ciliegie parlano. Era verso il più vicino ciliegio, anzi una fila d'alti ciliegi d'un bel verde frondoso che Cosimo si dirigeva, e carichi di ciliegie nere. Ma mio fratello ancora non aveva l'occhio a distinguere subito tra i rami quello che c'era e quello che non c'era. Stette lì. Prima ci si sentiva del rumore. E ora no. Cosimo era sui rami più bassi e tutte le ciliegie che c'erano sopra di lui se le sentiva addosso. Non avrebbe saputo spiegare come. Parevano convergere su di lui. Pareva insomma un albero con occhi invece che ciliegie. Cosimo alzò il viso e una ciliegia troppo matura gli cascò sulla fronte con un ciac. Socchiuse le palpebre per guardare in su contro cielo, dove il sole cresceva, e vide che su quello e sugli alberi vicini c'era pieno di ragazzi appollaiati. Al vedersi visti, non stettero più zitti e con voci acute, benché smorzate, dicevano qualcosa come «Guardalo lì, quanto l'è bello!» e spartendo davanti a sé le foglie ognuno del ramo in cui stava, scese a quello più basso, verso il ragazzo col tricorno in capo. Loro erano a capo nudo o con sfrangiati cappelli di paglia e alcuni incappucciati in sacchi. Vestivano lacere camicie e brache. Ai piedi chi non era scalzo aveva fasce di pezza e qualcuno legati al collo portava gli zoccoli, tolti per arrampicarsi. Erano una gran banda dei ladruncoli di frutta, da cui Cosimo e io c'eravamo sempre, in questo obbedienti alle ingiunzioni familiari, tenuti ben lontani. Quel mattino invece mio fratello sembrava non cercasse altro, pur non essendo nemmeno a lui ben chiaro che cosa se ne ripromettesse. Stette fermo ad aspettarli mentre calavano indicandoselo e lanciandogli in quel loro agro sottovoce motti come «Cos'è che qui che cerca questo qui?» e sputandogli anche qualche nocciolo di ciliegia o tirandogliene qualcuna di quelle bacate o beccate da un merlo dopo averle fatte vorticare in aria sul picciolo con mossa da frombolieri. Fecero un tratto! Avevano visto lo spadino che gli pendeva dietro. «Lo vedete che cosa ci ha?» e giù risate. «Il battichiappe!» Poi fecero silenzio. E soffocavano le risa perché stava per succedere una cosa da diventare matti dal divertimento. Due di questi piccoli manigolti, zitti zitti, si erano portati su di un ramo proprio sopra Cosimo e gli calavano la bocca d'un sacco sulla testa. Uno di quei lerci sacchi che a loro servivano certo per metterci il bottino e quando erano vuoti si acconciavano in testa come i cappucci che scendevano sulle spalle. Tra poco mio fratello si sarebbe trovato insaccato senza neanche capir come e lo potevano legare come un salame e caricarlo di pestoni. Cosimo fiutò il pericolo, o forse non fiutò niente, si sentì deriso per lo spadino e volle sfoderarlo per punto d'onore. Lo brandì alto, la lama sfiorò il sacco, lui lo vide e con una cartocciata lo strappò di mano ai due ladroncelli e lo fece volar via. Era una buona mossa. Gli altri fecero degli «oh!» insieme di disappunto e meraviglia e i due compari che si erano lasciati portar via il sacco lanciarono insulti dialettali come «cuiasse! Belinui!» Non ebbe tempo di rallegrarsi del successo, Cosimo. Una furia opposta si scatenò da terra. La travano, tiravano dei sassi, gridavano «Stavolta non ci scappate, bastardelli ladri!» e s'alzavano punte di forcone. Tra i ladruncoli sui rami ci fu un rannicchiarsi, un tirar su di gambe e gomiti. Era stato quel chiasso attorno a Cosimo a dar l'allarme agli agricoltori che stavano allerta. L'attacco era preparato in forze. Stanchi di farsi rubare la frutta man mano che maturava, parecchi dei piccoli proprietari e dei fittavoli della vallata s'erano federati tra loro. Perché alla tattica dei furfantelli di dar la scalata tutti insieme a un frutteto, saccheggiarlo e scappare da tutt'altra parte e lì da capo, non c'era da opporre che una tattica simile. Cioè farla posta tutti insieme in un podere dove prima o poi sarebbero venuti e prenderli in mezzo. Ora i cani sguinzagliati abbaiavano rampando al piede dei ciliegi, con bocche irte di denti e in aria si protendevano le forche da fieno. Dei ladruncoli tre o quattro saltarono a terra giusto in tempo per farsi bucare la schiena dalle punte dei tridenti e il fondo dei calzoni dal morso dei cani e correre via urlando e sfondando a testate i filari delle vigne. Così nessuno osò più scendere. Stavano sbigottiti sui rami, tanto loro che Cosimo. Già gli agricoltori mettevano le scale contro i ciliegi e salivano, facendosi prendere dai denti puntati dei forconi. Ci vollero alcuni minuti prima che Cosimo capisse che essere lui spaventato perché era spaventata quella banda di vagabondi era una cosa senza senso. Com'era senza senso quell'idea che loro fossero tanto in gamba e lui no? Il fatto che se ne stessero lì come dei tonti era già una prova. Cosa aspettavano a scappare sugli alberi intorno? Mio fratello così era giunto fin lì e così poteva andarsene. Si calcò il tricorno in testa, Cercò il ramo che gli aveva fatto da ponte. Passò dall'ultimo ciliegio a un carrubo. Dal carrubo, penzolandosi, calò su di un susino e così via. Quelli, al vederlo girare per quei rami come fosse in piazza, capirono che dovevano tenergli subito dietro. Se no, prima di ritrovare la sua strada, chissà quanto avrebbero penato. E lo seguirono zitti, carponi per quell'itinerario tortuoso. Lui, intanto, salendo per un fico, scavalcava la siepe del campo. Calava su di un pesco, tenero di rami, tanto che bisognava passarci uno alla volta. Il pesco serviva solo ad aggrapparsi al tronco storto d'un olivo, che sporgeva da un muro. Dall'olivo con un salto s'era su una rovere che allungava un robusto braccio oltre il torrente e si poteva passare sugli alberi di là. Gli uomini con le forche, che credevano ormai d'avere in mano i ladri di frutta, se li videro scappare per l'aria come uccelli. Li inseguirono correndo insieme ai cani latranti, ma dovettero aggirare la siepe, poi il muro, poi in quel punto del torrente non c'erano ponti e per trovare un guado persero tempo e i monelli erano lontani che correvano. Correvano come cristiani, con i piedi per terra. Sui rami c'era rimasto solo mio fratello. «Dov'è finito quel salto in palo con le ghette?» si chiedevano loro, non vedendoselo più davanti. Alzarono lo sguardo. Era là che rampava per gli olivi. «Ehi tu, cala da basso! Ormai non ci pigliano!» Lui non calò. Saltò tra fronda e fronda. Da un olivo passò a un altro. Sparì alla vista tra le fitte foglie argentee. Il branco dei piccoli vagabondi, con i sacchi per cappuccio in mano canne, ora saltava certi ciliegi in fondo valle. Lavoravano con metodo, spogliando ramo dopo ramo, quando, in cima alla pianta più alta, appollaiato con le gambe intrecciate, spiccando con due dita i piccioli delle ciliegie, mettendole nel tricorno posato sulle ginocchia, chi videro? Il ragazzo con le ghette. «Ehi, di dove arrivi?» gli chiesero arroganti. Ma c'erano restati male, perché pareva proprio che fosse venuto lì volando. Mio fratello ora prendeva una a una le ciliegie dal tricorno e le portava alla bocca come fossero canditi. Poi soffiava via i noccioli con uno sbuffo delle labbra, attento che non gli macchiassero il panciotto. «Questo mangia gelati!» disse uno. «Cosa avanza da noi? Perché ci viene tra i piedi? Perché non si mangia quelle del suo giardino di ciliegie?» Ma erano un po' intimiditi, perché avevano capito che sugli alberi era più in gamba lui di tutti loro. «Tra questi mangiagelati», disse un altro, «ogni tanto ne nasce per sbaglio uno più in gamba. Vedi la Sinforosa?» A questo nome misterioso Cosimo tese l'orecchio e, non sapeva nemmeno lui perché, arrossì. «La Sinforosa ci ha tradito», disse un altro. «Ma era in gamba per essere una mangiagelati pure lei. E se ci fosse stata ancora lei a suonare il corno, stamane non ci avrebbero preso. Può stare con noi anche un mangiagelati, si capisce, se vuole essere dei nostri.» Cosimo capì che mangiagelati voleva dire abitante delle ville, o nobile, o comunque persona altolocata. «Senti tu», gli disse uno, «patti chiari. Se vuoi essere con noi, le battute le fai con noi e ci insegni tutti i passi che sai. E ci lasci entrare nel frutteto di tuo padre», disse un altro. «A me una volta mi ci hanno sparato col sale.» Cosimo li stava a sentire, ma come assorto in un suo pensiero, poi fece: «Ma ditemi, chi è la Sinforosa?» Allora tutti quegli straccioncelli tra le fronde scoppiarono a ridere, tanto che qualcuno per poco non cadeva dal ciliegio, e qualcuno si buttava indietro tenendosi con le gambe a ramo, e qualcuno si lasciava penzolare appeso per le mani, sempre sghignazzando e urlando. Con quel chiasso, si capisce, riebbero gli inseguitori alle calcagna. Anzi, doveva essere proprio lì la squadra di quelli coi cani, perché si levò un alto abbaio e rieccoli lì tutti con le forche. Solo che questa volta, fatti esperti dallo scacco subito, per prima cosa occuparono gli alberi intorno, salendoci con le scale a pioli, e di là coi tridenti e i rastrelli li circondavano. A terra i cani, in quel diramare di uomini su per le piante, non capirono subito da che parte aizzarsi e restarono un po' sparpagliati ad abbaiare a muso all'aria. Così i ladruncoli poterono buttarsi svelti a terra, correre via ognuno da una parte in mezzo ai cani disorientati, e se qualcuno di loro prese un morso in un polpaccio o una bastonata o una pietrata, i più sgombrarono sani il campo. Sull'albero restò Cosimo. «Scendi!» gli gridavano gli altri salvandosi. «Che fai? Dormi! Salta a terra finché la via è sgombra!» Ma lui, stretto coi ginocchi al ramo, sguainò lo spadino. Dagli alberi vicini gli agricoltori sporgevano le forche, legate in cima a bastoni per arrivarlo, e Cosimo, mulinando lo spadino, le teneva lontane, finché non gliene puntarono una in pieno petto, inchiodandolo al tronco. «Ferma!» gridò una voce. «È il baroncino di Piovasco. Cosa fa, signorino, costassù? Come mai si è mischiato con quella marmaglia?» Cosimo riconobbe Giuà della Vasca, un manente di nostro padre. Le forche si ritirarono, molti della squadra si tolsero il cappello, anche mio fratello sollevò con due dita il tricorno dal capo e si inchinò. «Ehi voi di giù, legate i cani!» gridarono quelli. «Fatelo scendere!» «Può scendere, signorino, ma stia attento che l'albero è alto. Aspetti, le mettiamo una scala, poi la riaccompagno a casa io.» «No, grazie, grazie», disse mio fratello. «Non vi incomodate, so la mia strada da me.» Sparì dietro il tronco e riapparve su un altro ramo. Girò ancora dietro il tronco e riapparve un ramo più su. Risparì dietro il tronco ancora e se ne videro solamente i piedi sul ramo più alto, perché sopra c'erano fitte fronde e i piedi saltarono e non si vide più niente. «Dove è andato?» si dicevano gli uomini e non sapevano dove guardare, su o giù. «Eccolo!» era in cima a un altro albero, distante, e risparì. «Eccolo!» era in cima un altro ancora, ondeggiava come portato dal vento e fece un salto. «È caduto! No, no, no, è là!» Se ne vedeva sopra lo svettare del verde solo il tricorno ed il codino. «Ma che padrone ci hai?» chiesero quelli a Giuà della Vasca. «È uomo o animale selvatico? O è il diavolo in persona?» Giuà della Vasca era restato senza parola. Si segnò. S'udì il canto di Cosimo, una specie di grido solfeggiato. «Oh, la sinforosa!» Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.